Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Le visite di Josef a Plinio non si limitarono a quella prima, ma si ripeterono. Si giunse a discutere dell'educazione del giovane Tito, con l'alacre partecipazione di sua madre. A mano il magister conquistò la fiducia e la simpatia di quella donna savia e diffidente. Un giorno, avendo egli detto, come per Celia, essere gran peccato che il figliolo non fosse stato mandato tempestivamente in Castalia per esservi educato, ella prese l'osservazione come un rimprovero e si giustificò affermando che, con ogni probabilità, Tito non avrebbe potuto esservi accolto, poiché era intelligente, ma difficile da trattare, e lei non si sarebbe mai permessa di intervenire nella vita del ragazzo contro la sua volontà, tanto più che il medesimo tentativo fatto col padre di lui a suo tempo non era appunto riuscito. D'altro canto, né lei né suo marito avevano pensato di pretendere per il figliolo il privilegio concesso alla famiglia dei signori, dato che avevano rotto i ponti col padre di Plinio e con tutta la tradizione dell'antica casata. Infine aggiunse, con un amaro sorriso, che neanche in ben altre circostanze avrebbe potuto separarsi dal figliolo, poiché tranne lui non possedeva niente che rendesse la sua vita degna di essere vissuta. A questa osservazione, piuttosto involontaria che calcolata, Knecht ripensò a lungo. Fino a quel momento, il Ludi Magister non aveva avuto col presidente della direzione dell'ordine contatti più stretti di quelli imposti dalle funzioni ufficiali. Ora, quell'uomo venerando era morto e al suo posto l'ordine aveva eletto il nuovo presidente Alexander. Era quello stesso maestro di meditazione che, anni prima, la direzione dell'ordine aveva assegnato al nostro Josef Knecht per i primi tempi delle sue funzioni. La disciplina meditativa e il gioco delle perle erano i beni veramente caratteristici della Castalia. Non era quindi privo di importanza il fatto che i due suoi rappresentanti e dirigenti fossero tra loro in rapporti amichevoli. Questi erano per entrambi una conferma e un aumento della loro dignità, un'aggiunta di calore e soddisfazione nella vita, una ulteriore spinta a svolgere il compito di rappresentare, con la loro persona, i due beni più intimi, le due forze più sacre del mondo castalio, e a viverle per dare l'esempio. Questo era dunque per Knecht un altro legame, un altro contrappeso alla sua volontà di rinunciare a tutto ciò e a portarsi in un'altra atmosfera. Riteniamo di poter affermare che, da quel tempo, l'idea del futuro distacco dalla carica e dalla provincia gli era diventata familiare, talvolta come può essere al prigioniero la fede nella liberazione, tal'altra come al malato grave la consapevolezza della morte. In quella prima conversazione con Plinio, il compagno della sua giovinezza, l'aveva espressa per la prima volta, forse soltanto per conquistare e far parlare l'amico taciturno e riservato, ma forse anche per avere uno che ne fosse informato, una prima manifestazione, una prima spinta ad attuare il suo nuovo risveglio, il nuovo piano di vita. Nei colloqui successivi con dei signori, il suo desiderio di abbandonare un giorno la Castalia e di osare il salto nel nuovo assunse già l'aspetto di una decisione. Né dobbiamo stupirci se, soltanto più tardi, il magister permise all'amico Tegularius di ficcare lo sguardo nel suo segreto di evasione. Come aveva sempre saputo formare le sue amicizie attraverso l'aiuto e la benevolenza, così le considerava e le dirigeva con autonoma diplomazia. In che modo poteva rendere gustoso e digeribile a un uomo come Tegularius il proprio desiderio di sottrarsi pian piano a Valzel e alla carica di magister? Se abbandonava Valzel, Knecht scompariva per sempre agli sguardi di questo amico. Non c'era neanche da pensare di portarlo con sé per la via stretta e pericolosa che gli si apriva davanti. Neanche se, contro ogni previsione, quegli ne avesse trovato la voglia e l'ardire. Knecht attese, rifletté e indugiò a lungo prima di confessargli le sue intenzioni. Infine lo fece quando la sua decisione di andarsene era ormai presa. Gli sarebbe andato troppo contro genio lasciare l'amico all'oscuro fino all'ultimo, fare progetti a sua insaputa e preparare passi le cui conseguenze avrebbero coinvolto anche lui. se possibile, voleva farne, come Plinio, non solo un consapevole, ma un vero o almeno illuso coadiutore e collaboratore, poiché l'attività aiuta sempre a sopportare meglio ogni situazione. I pensieri di Knecht sul pericolo di una decadenza dello spirito Castalio erano noti da tempo all'amico, in quanto Knecht era disposto a comunicarli e l'altro ad accoglierli. Di qui Knecht prese le mosse quando deliberò di parlare a Fritz. Come individualista e nemico di ogni regolamento, Tegularius aveva preso sempre le parti del singolo contro l'autorità. Era sempre disposto a combattere, a provocare e a vincere d'astuzia i poteri ufficiali. Così Knecht trovò la strada giusta e, con un respiro di sollievo, ridendo fra sé, assecondò subito la reazione dell'amico. Gli lasciò credere che si trattasse di una specie di colpo di mano contro la burocrazia reazionaria e, nella preparazione di esso, gli affidò una parte di collaboratore e congiurato. Bisognava elaborare una petizione all'autorità, un elenco e un commento di tutte le ragioni che gli suggerivano di ritirarsi dalla carica. A Tegularius spettò soprattutto il compito di preparare questa petizione. In primo luogo doveva far sua la visione storica di Knecht circa l'origine, lo sviluppo e l'attuale stato della Castalia, poi raccogliere materiale che documentasse i desideri e le proposte di Knecht. Al primo incontro ne parlò con Plinio De Signori. Fra ciò che progetto e l'attuazione sta la legge fondamentale della nostra gerarchia. E un'autorità che in seguito a una petizione, sia pure motivata in modo convincente, dimettesse il maestro del gioco delle perle e gli assegnasse un'attività fuori dalla Castalia, devo dire che non mi piacerebbe. Oltre a ciò, abbiamo a che fare col maestro Alexander, un uomo inflessibile. Certo è che dovrò combattere questa battaglia da solo. Lasciamo però che Tegularius eserciti intanto il suo acume. In tal modo perdiamo soltanto un po' di tempo che, del resto, mi occorre per lasciare qui ogni cosa in ordine, affinché la mia partenza possa avere luogo senza danni per Walzel. Frattanto tu però devi procurarmi un alloggio e una possibilità di lavoro, sia pure modesto, laggiù tra voi. In caso estremo, mi basterebbe anche un posto di docente di musica, purché fosse un inizio, un trampolino. De Signori espose allora con titubanza qualcosa che covava già da tempo. «Avrei da fare una proposta. Ti prego almeno di ascoltarla e di vagliarla con benevolenza. Può darsi tu la possa accettare e in questo caso renderesti anche un servigio a me. Fin dal primo giorno in cui fui tuo ospite, mi hai soccorso in molte circostanze. Hai conosciuto la mia vita e la mia casa e sai quale ne sia la situazione. Non buona, ma sempre migliore che da anni. Il punto più difficile sono i rapporti tra me e mio figlio. È un ragazzo viziato e insolente. Occupa in casa nostra un posto di riguardo e di privilegio che gli fu concesso, quasi suggerito, negli anni in cui, ancora bambino, sua madre e io ce ne contendevamo l'affetto. Si è messo poi decisamente dalla parte della madre, mentre a me furono strappati di mano, a poco, tutti i mezzi educativi di qualche efficacia. Mi ero rassegnato, come in genere a tutta la mia esistenza, piuttosto sfortunata. Adesso, invece, trovandomi, grazie a te, sufficientemente guarito, mi è rinata la speranza. Hai belle capito dove voglio andare a parare. Mi riprometterei grandi cose se Tito, che nella scuola dov'è incontra molte difficoltà, avesse per qualche tempo un insegnante, un educatore che si occupasse di lui. È una richiesta egoistica, lo so, mentre non so se questo compito possa allettarti, ma tu stesso mi hai dato il coraggio di parlarne. Knecht sorrise e gli strinse la mano. Grazie, Plinio. Nessuna proposta potrebbe essermi più cara. Manca soltanto il consenso di tua moglie. Poi dovresti decidervi a lasciarmi interamente vostro figlio, almeno nei primi tempi. Per poterlo avere in pugno, devo escludere l'influsso quotidiano della casa paterna. Devi parlarne con tua moglie e indurla ad accettare questa condizione. Procedi con cautela. Non occorre che abbiate fretta. In quel tempo, Knecht ripeté varie volte le sue visite nella capitale. Donna De Signori nutriva sempre maggior fiducia in lui, come infatti la persona sana e equilibrata è spesso accolta facilmente dalla gente difficile e carica di guai, e dopo non molto accettò il progetto del marito. In quanto a Tito, sappiamo che durante una di quelle visite avvertì il magister, con una certa petulanza, che desiderava non gli desse del tu perché tutti, anche gli insegnanti della sua scuola, gli davano del lei. Knecht lo ringraziò con molta cortesia e domandò scusa dicendogli che nella sua provincia gli insegnanti si rivolgevano col tu a tutti gli alunni e agli studenti, anche quando erano adulti. Dopo colazione, invitò il ragazzo a uscire un poco con lui e lo pregò di fargli vedere una parte della città. Mentre in quella prima passeggiata Tito stette ad ascoltare l'ospite con attenzione e abbastanza volentieri, in altre occasioni si dimostrò di nuovo restio e ostile, poiché nell'uomo che i suoi genitori pareva stimassero tanto, fiutava un potere suscettibile di diventare pericoloso per la sua viziata libertà e certe volte si mostrava decisamente sgarbato. È vero che ogni volta se ne rammaricava e cercava di riparare, perché il suo amor proprio rimaneva mortificato per la brutta figura di fronte alla serena cortesia della quale il magister si circondava come di una lucida corazza. Il suo cuore inesperto e piuttosto selvatico sentiva in segreto di avere a che fare con un uomo che forse avrebbe potuto amare e venerare profondamente. Lo sentì in modo particolare nella mezz'ora in cui trovò Knecht solo in attesa del babbo, trattenuto dai suoi affari. Entrando nella stanza, vide l'ospite seduto, immobile, in atteggiamento statuario, con gli occhi socchiusi, mentre la sua concentrazione irradiava calma e pace. Sicché il ragazzo si vide istintivamente costretto a smorzare il passo e ad uscire in punta di piedi. In quel momento, però, Knecht aprì gli occhi, lo salutò gentilmente, si alzò e, indicando il pianoforte, gli domandò se gli piacesse la musica. Tito rispose sì e aggiunse che da parecchio tempo non prendeva più lezioni né aveva fatto esercizi, perché a scuola non era certo tra i primi e, d'altro canto, i ripetitori lo tormentavano già abbastanza. L'ascolto della musica, però, gli aveva sempre dato gioia. Knecht aprì il pianoforte, sedette, saggiò l'accordatura e suonò un andante di Scarlatti sul quale in quei giorni aveva costruito un esercizio di gioco delle perle. Quando smise, vedendo il ragazzo attento e assorto, incominciò a spiegargli in brevi parole in che cosa consistessero le esercitazioni nel gioco delle perle. Scompose la musica nelle sue parti, indicò alcune maniere di analisi che vi si potevano applicare e accennò i modi di tradurre la musica nei geroglifici del gioco. Per la prima volta, Tito non guardò il maestro come ospite, come celebre erudito a lui ostico perché deprimeva il suo amor proprio, ma lo vide al lavoro. Vide l'uomo che aveva imparato un'arte molto sottile e precisa e la esercitava da maestro, un'arte della quale Tito poteva soltanto intravedere il significato, mentre richiedeva tutte le forze di un uomo e tutta la sua devozione. Anche il suo amor proprio fu lusingato nel vedersi considerare adulto e abbastanza intelligente per avvicinarlo a cose così complicate. Rimase silenzioso e in quella mezz'ora incominciò a intuire quali origini avessero la serenità e la tranquilla sicurezza di quell'uomo singolare. Thank you. quel tempo ristudiò a fondo la Costituzione e gli statuti dell'ordine e notò che il suo allontanamento dalla provincia non era poi così difficile o quasi impossibile da ottenere come da principio si era figurato. Non voleva certo scappare alla chetichella, ma preparava una richiesta circostanziata per ottenere la libertà. Tegularius aveva le dita nere a furia di scrivere. Non credeva però nell'accoglimento della richiesta. Lo avrebbero calmato con le buone, forse ammonito. Gli avrebbero offerto un periodo di riposo a Maria Fels, dove padre Jacobus era morto poco prima, o forse anche a Roma, ma credeva di capire che non l'avrebbero lasciato andare. Ciò sarebbe stato contrario a tutte le tradizioni dell'ordine. Se lo avessero fatto, avrebbero ammesso che il suo desiderio era comprensibile e che la vita in Castalia, persino su un piano così elevato, poteva talora essere insufficiente per un uomo e significare per lui rinuncia e prigionia. Stiamo avvicinandoci alla fine del nostro racconto. Come abbiamo accennato, la nostra conoscenza di essa è lacunosa ed è più leggenda che resoconto storico. Dobbiamo accontentarci, ma siamo lieti di poter riempire il penultimo capitolo della biografia di Knecht con un documento autentico, vale a dire con quello scritto esauriente nel quale lo stesso maestro del gioco delle perle di vetro presenta all'autorità i motivi della sua decisione e la prega di esonerarlo dalla carica. Per noi conta esclusivamente sapere quale uso il Ludi Magister abbia fatto del lavoro di Tegularius. Questi glielo porse con gesto solenne e Knecht lo accolse con parole cordiali di gratitudine e di riconoscimento. Poi, sapendo di fargli piacere, pregò l'amico di leggerglielo. Per più giorni il compilatore passò mezz'ora nel giardino del Magister e gli lesse con grande soddisfazione i numerosi fogli che componevano il manoscritto e più volte la lettura fu interrotta da grandi risate di entrambi. Quelle furono per Tegularius giornate felici. Dopo però Knecht si ritirò e, servendosi di alcune parti del manoscritto, compose la sua richiesta all'autorità, che qui viene riportata letteralmente e non ha alcun bisogno di commenti. Lo scritto del Ludi Magister all'autorità pedagogica. Varie considerazioni hanno indotto me, Ludi Magister, a presentare all'autorità una richiesta personale. La invio con questo scritto a parte e, per così dire, privato, anziché accoglierla nel mio rendiconto solenne. Allego questo scritto al rapporto ufficiale che è in scadenza e ne aspetto l'evasione ufficiale, ma ciò nonostante lo considero piuttosto una specie di circolare ai magistri miei colleghi. Uno dei doveri del magister è quello di richiamare l'attenzione dell'autorità quando il suo regolare ufficio incontri ostacoli o sia minacciato da pericoli. Per dirla in breve, ho incominciato a dubitare delle mie capacità di adempiere pienamente alle mie funzioni, perché sono costretto a considerare minacciate le mie funzioni stesse. Quel gioco delle perle di vetro che è stato commesso alle mie cure. Questo scritto mira a dimostrare all'autorità che l'accennato pericolo esiste e che, scoperto, mi chiama insistentemente in un luogo diverso da quello che occupo. Abbiamo la fortuna di vivere tranquilli in un mondo piccolo, pulito e sereno, e la maggior parte di noi, per strano che possa sembrare, vive nella finzione che tale mondo esista ab eterno e che noi siamo nati in esso. Anch'io ho vissuto i miei giovani anni in questa piacevolissima illusione, mentre la realtà mi doveva pure essere nota, che cioè non ero nato in Castalia, ma vi ero stato mandato dalle autorità e che la Castalia, l'ordine, le scuole, gli archivi e il gioco delle perle di vetro non sono sempre esistiti, né sono opera della natura, bensì una tarda e nobile creazione dell'umana volontà, transitoria, come tutte le cose create. Tutte queste cose le sapevo, ma per me non erano reali. Non ci pensavo, evitavo di guardarle e mi consta che più di tre quarti di noi vivono e moriranno in questa curiosa e gioconda illusione. Ma come vi sono stati secoli e millenni senza l'ordine e senza la Castalia, così sarà di nuovo in avvenire, E se oggi ricordo ai miei colleghi questa verità evidente, se li invito a volgere lo sguardo ai pericoli che ci minacciano, se assumo per un momento la parte piuttosto invisa e grottesca del profeta e del predicatore, sono pronto a sostenere le eventuali beffe. Ma confido che la maggioranza di voi leggerà questo scritto sino in fondo e che parecchi mi daranno persino ragione in taluni punti. Sarebbe già un buon risultato. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.